piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Decameron, prima giornata, quarta novella. Un monaco, caduto in peccato degno di gravissima punizione, onestamente rimproverando al suo abate quella medesima colpa, si libera dalla pena. Tirate un sospiro di sollievo, tranquilli, non vi parlerò del coronavirus, no, perché non ne posso più, non ne posso più dei colleghi con la mascherina. Stamattina ho visto Leonora Daniela, fa una foto nel suo profilo Instagram, io metto la mascherina come se indossasse un cappellino di moda. Già ho visto le mascherine colorate, quelle carine, quelle belle, il nuovo trend. Supermercato qua sotto, tranquillissimo, ho comprato tutto, anche fazzoletti disinfettanti. E poi voglio star tranquillo oggi. E mi viene in mente che probabilmente una formula interessante, quella che si inventò Giovanni Boccaccio, quando raccontò la storia di questo gruppetto di ragazzi, che erano 7 donne e 3 uomini, quindi mi sembra la giusta proporzione, la giusta alchimia, che scappavano da Firenze, c'era la peste nera, più o meno era l'anno fine del 1349-1350, l'anno della peste nera. Questi, come tutti, stavano con la peste nera, se andarono in una bella casa in campagna a raccontarsi sconcezze, e si spera anche a fare sconcezze, perché lo YouPorn di allora era raccontarsi alla voce, non è che si potevano guardare i filmini. Oggi non è che vorremmo far questo, ma sommessamente ricordo che domani è martedì grasso. È vero sì che c'è stata l'ordinanza, è stato sospeso il carnevale di Venezia. Come faranno i veneziani senza carnevale? Stanno lì sempre con le solite maschere, con le damine del Settecento, i paggetti con le polpe del Settecento. Molti si vogliono mascherare da medici della peste. Io già giro da una settimana con la maschera da medico della peste che ho comprato al negozio di Dario Argento. Mi sembrava una cosa molto divertente, ma oggi meglio forse non parlarne. Beh, domani è martedì grasso, voi che fate? Non lo so, per dire, non è, dico, c'è il divieto di assembramento, benissimo, c'è il divieto di serenità, benissimo, c'è anche il divieto di fine orgiastica del carnevale, poi il giorno dopo il giorno di quaresima, andrete tutti a mettervi la cenere in testa, bravi, come appunto la peste del 300, la gente si radunava tutti a pregare insieme e si passavano la peste l'un l'altro. Mi fa ridere che ieri erano state soppresse tutte le partite, anche di serie Z, ogni angolo di calcetto parrocchiale era stato interdetto alla folla, gli studi televisivi vuoti di tutte le solite vecchiardume che, di figuranti che sta sempre lì, e il Papa c'ha una radunata oceanica a Bari di persone che si tossivano addosso. Detto questo, basta, ho promesso che non parlavo di coronavirus, voglio parlare di carnevale. Domani è l'ultimo giorno di carnevale, benissimo. Tutti voi ricorderanno probabilmente che nella loro esistenza avranno messo delle maschere carnevalizie. Gli saranno state imposte le maschere smesse dei loro fratelli maggiori, in casi di indigenza familiare hanno messo le mascherine rimediate, fatte più o meno così con quello che c'è in casa, una mascherina nera da 2 soldi, un cappellaccio di carta, ecco, fatto Zorro, il solito vestito da odalisca che ti metti dei vestiti alla sorella più grande. Insomma, abbiamo molto sofferto per maschere che ci sono state imposte, maschere tristi, maschere che non corrispondevano al nostro immaginario carnevalesco. Noi volevamo far festa, mascherarci da qualcosa che probabilmente galleggiava nei nostri desideri, nelle nostre aspirazioni fanciullesche. Invece no, c'era sempre la maschera imposta dai nonni. Io ricordo ancora delle orribili maschere da Pierrot che ci impose nostra nonna. A me e mio fratello elementare vestiti a Pierrot non sapevamo manco cosa fosse, ma 2 burini perugini degli anni 60, che ne sanno che è Pierrot? Mia nonna, facciamoli da Pierrot Lunaire, perché c'aveva 2 vecchie lenzuola, ritagliate a lenzuola, una cucitina, vestiti da buffoni, capito? Come entrammo in classe vestiti da Pierrot, i figli degli altri contadini perugini, che erano i nostri compagni amati di classe, ridevano come matti, anche perché avevamo sbagliato il giorno, invece che il martedì grasso eravamo andati il mercoledì, una cosa del genere. Quindi avevamo sbagliato tutto, tutto fuori tempo, un trauma terribile. Beh, voi avete mai subito una maschera? Che maschera vi metterete domani? Avevate già preparato il vestito, il veglione, tutto pronto, vestiamoci da cosa? Ma vestiamoci da, non so, da ballerina di Cancan, una scusa per mettersi Gay Pierre e Gicalzo, vedere se riuscire a fattizzare qualcuno. Che ci vestiamo domani? Ma vestiamoci da sceicco, pensate cosa divertente. Qualche demente ha anche vestito un bambino da Hitler, ieri l'ha mandato per Piazza Navona, vestito da piccolo Hitler. Oddio, aveva il contrassegno al posto della svastica che aveva Charlot quando Chaplin fece la famosa parodia di Hitler, ma comunque non mi sembrava più il caso. Domani è che vi vestite? Vestite da zombie, vestite da monatti, vestite anche voi da dottori della peste col nasone, vi sembrerà spiritoso, vi farà ridere, ma a me non fa ridere per niente. 800240024, le maschere infami della vostra fanciullezza, cominciamo da questo. Io mi ricordo questa cosa qui che è stata un po' in un trauma riferita all'età, diciamo così. Io ora si parla quasi di 50 anni fa, e noi eravamo una famiglia di contadini, praticamente come ce n'era moltissimi qua nelle campagne toscane. Niente, la grande fantasia dei miei genitori, uno dei primi vestiti che mi ricordo per carnevale era proprio da contadino. Benché avevamo una buona situazione economica, a me mi affibbiavano sempre i vestiti di mio fratello. Io mi sono beccato nella serie vestito da Zorro, che praticamente erano il conformismo anni 70 a vestirsi da Zorro i bambini. Però udite udite, il secondo anno ereditai un vestito da guardia dello zar penoso. Io ho 50 anni suonati e sono stato costretto a travestirmi da Sorbolik, che era un personaggio, un cartone animato che appariva in una pubblicità, in un carosello, perché allora erano i caroselli, parliamo degli anni 60, assieme a Gino Cervi, era la pubblicità di un liquore. Ecco delle prime preponderanti pennellate di tristezza, di ignominia, di sopraffazione, di bambini tristi costretti a mettersi costumi di carnevale che ha voluto con piacere il loro desiderio di trasgressione, di larità. Il carnevale a cosa serve? Per educare i bambini a mettersi maschere, a gioire, a infrangere le regole. Dovrebbe essere una sorta di omnia licet il carnevale, in cui tutti possono fare quello che vogliono. Proprio per questo si fa il carnevale. E proprio per questo poi è bella la quaresima, in quanto momento di commiserazione, di espiazione, di purificazione delle proprie colpe. Ma se a martedì grasso nessuno di voi compie delle colpe, non compiace la carne, non pecca di lussuria, di desiderio della donna altrui o dell'uomo altrui, e che quaresima farete mai? Sarà tutta una quaresima. Quindi cominciate a raccontarmi almeno le vostre velleità, le vostre aspirazioni. Devo dire che in metà Italia, almeno se non cambiano poi ancora le notizie, tutti informatissimi daranno naturalmente sul coronavirus, diciamo che da Roma in su pare che la quaresima è già cominciata, ma da Roma in giù magari ancora qualcuno c'ha voglia. Ah, a proposito, divertentissimo. Noi eravamo a Ischia l'altro giorno, ve lo devo dire perché fa ridere, con Tommy, con cui sapete stiamo girando un film, stiamo seguendo con Radio 24, il podcast ve lo sta raccontando, con la troupe che gira questo nuovo film, e mirato appunto alla raccolta di oggetti straordinari per questa asta a cui anche voi state partecipando, mandando a Radio 24 anche le foto dei vostri oggetti straordinari. Ci fermiamo a Ischia a girare, naturalmente come accade nei piccoli centri quando arriva qualcuno da fuori, l'idea che una troupe girava un film a Ischia ha richiamato molte persone, fra cui anche il sindaco. Siamo stati felicissimi, abbiamo visto il sindaco, Tommy ha abbracciato il sindaco, abbiamo fatto le foto col sindaco, la troupe ha visto il sindaco. Io ebbi la malaugurata idea però di dire che due dei miei amici della troupe, non dico i nomi ma però sono due simpatici ragazzi, erano di origine delle terre, diciamo, da cui ci fu la scaturigine prima del coronavirus, e oggi, diciamo, vivono nel bergamasco. Vedevo facce un po' tristi, infatti la sera partì l'ordinanza che era interdetto l'accesso a Ischia di tutti i lombardi e veneti, poi magari è rientrata l'ordinanza, ma ci sentiamo colpevoli in parte, responsabili di aver messo questa idea in testa agli ischitani che potevamo portargli il morbo da fuori tranquilli. Sicuramente non sarà colpa nostra, ma vediamo che Ischia, speriamo e siamo sicuri che Ischia sarà preservata. Ecco Marco, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, ho sentito il programma e volevo ricordare che per merito di un vestito di carnevale io ho conosciuto mia moglie. Cioè, mi faccia capire, sua moglie era mascherata, lei si è fidanzato con la donna mascherata, quando si è tolta la maschera era già sposato e quindi non poteva più tornare indietro. No, No, quando mi sono tolto la maschera ha detto che gli piaceva di più senza. Allora, mi ripeta il set che è molto interessante. Dunque, eravamo a festa di carnevale, ero vestito da dottore e ovviamente con tutte le attrezzature del caso, un mascherone tutto, invitavo certe ragazze a farsi visitare. Quindi avete giocato a dottore a 20 anni passati? No, perché lei mi ha detto, aspetta un attimo che voglio capire chi sei, no? Dice, ma ti conosco. Ma lei era disposta a farsi visitare comunque? Poi, dopo col tempo. E lei da cosa era mascherata, la moglie? Aveva un vestito dell'antica romana. Una toga. Beh, la vista viene facilitata dalla toga romana. Mi sono avvicinato perché ho visto che la toga era notevole, quindi è un bel costume. Ho detto, o matrona romana, posso io visitarti essendo un dottore? Più o meno, dottore. E lei ha detto, fammi vedere cosa c'è sotto. Ma anche lei voleva vedere cosa c'era sotto. Infatti, la maschera che vedo chi sei. E dopo ho detto, ma mi va bene lo stesso. Perché non era molto soddisfatto. E poi è partita. Ma parliamo di tanti anni fa, Era martedì grasso, quindi? Sì, no, era lunedì di carnevale, era al massimo. Il lunedì di carnevale, cioè oggi? Il lunedì di carnevale, quella sera c'era una festa e non si poteva. Quindi oggi festeggiate, diciamo, la scaturigine del vostro amore? Diciamo di sì. Spero di portarvi fortuna. Quanti anni sono passati? Quanti anni? Più di 30 anni. 30 anni? Adesso non vi mascherate più, ormai basta la faccia. Ormai è passato. Sulla parte del costume, ma ce l'ho ancora da qualche parte. Vabbè, spero questa sera di avervi dato una malandrina ispirazione. Potreste rivestirvi lei da dottore e la sua cortese signora da matrona romana. E stasera rigiocate a dottore, così festeggiate domani il martedì grasso alla faccia di chi ci mette tanta angoscia. Angela, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Allora, andiamo al suo mascheramento carnevalizio. Quello che ho subito. Sì, allora, certo. Almeno una ventina d'anni fa circa, anche di più, anzi di più senz'altro, 25. E una delle prime festine in serale alla quale ero stata invitata, i miei genitori avevano... Quanti anni aveva lei? Avrò avuto 16-17 anni. Beh, ancora bambina praticamente. Bambina. Una bambina senz'altro. La prima festicciola che poteva andare da sola la sera. Esatto, in serale. Quindi insomma, bella, contenta, mi ero sentita con le amichette come ti vesti, come non ti vesti, chi da gatta un po' sexy, chi da diavoletta, insomma ovviamente una serie, tutti un po' sexy. Io 16 anni è l'età in cui uno si sente carina, corteggiata. Esatto. Quindi... E lei da cosa l'hanno vestita? E invece padre ha deciso di tirar fuori, di riesumare un suo vecchissimo vestito da pagliaccio, quelli con l'hula hoop. Una cosa, cioè la vestita da pagliaccio. Esatto, mi ha vestito da pagliaccio con tanto di nasone, hula hoop, insomma ero tutto quello col cerchio dentro il costume. Esatto, dentro l'abito, per quindi delle sue procaci forme non si vedeva nulla. Ma zero proprio. Assolutamente cappellone, la parrucca ricciolona blu, insomma, una cosa assolutamente. Quindi nello young zoccolaio intorno a lei simulato per carnevale, lei era un orribile pagliaccio. Esattamente, e questa cosa devo dire a distanza di anni me la ricordo ancora perché è proprio una maschera subita. Ma pare mi racconti, la sua interessa però il set. Lei entra vestita da pagliaccio, nessuno la guarda, le sue amichette bellissime le avranno permesso di truccarsi, tutte le cose proibite quella sera le hanno fatte o l'hanno messa in opera. E lei rimaneva a guardare vestita da pagliaccio nell'udibrio degli altri compagni. Seduta da una parte con alcune amiche che venivano più o meno a consolarmi e maliziosamente a farmi vedere quanto si erano a fronte. Senta, ma questo le ha provocato dei traumi irreversibili? È parecchio, direi che questa cosa, non ho più potuto vedere un pagliaccio in vita mia. E devo dire che da allora il carnevale, il mascheramento non mi è più garbato così tanto, insomma. Mi dispiace Angela, spero che la sua relazione comunque sia potuta essere articolata negli anni in maniera abbastanza serena, perché ogni volta che si avvicinava a lei un uomo lei vedeva subito il pagliaccio e naturalmente si irrigidiva in una sorta di chiusura totale verso ogni forma di corteggiamento. È stata dura, immagino. Gianni, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Sì. Allora, il mio ricordo del carnevale è legato proprio all'odio verso un bambino, nel senso che mia mamma faceva la sartina, per cui ci cuciva e preparava ogni anno degli abiti che erano assolutamente indecifrabili, erano un incrocio tra un soldato, un infermiere, non si capiva. Zorro per noi sarebbe stato un successo. Diciamo che con i rimasugli di quello che aveva metteva insieme le cose, Arlecchino, queste cose ridicole. Ma, sì. ma il ricordo di questo odio è proprio legato a una sfilata che, a cui andammo a partecipare in Piazza Duomo a Milano, dove vivevo allora, dove sarebbe stata premiata la maschera più bella. Il vincitore, io avevo circa 10 anni, il vincitore è stato un bambino che ne avrà avuti 4 o 5, con un bellissimo abito da ufficiale napoleonico, e io da quel giorno ho in mente l'odio verso questo bambino e io la tristezza del mio abitino. Era un bambino ricco, bimbo minchia ricco, con i genitori che potevano permetterselo, sono andati al Museo Napoleonico, hanno fatto delle foto a abiti originali d'epoca, hanno fatto confezionare da dei sarti titolati con alamari d'oro, con tutti i velluti, le sete, i damaschi possibili, un bellissimo abito. Il bambino piccolo faceva anche tenerezza, gli hanno messo anche i baffi finti, il cappello in testa e via dicendo, e ha sopraffatto la sua possibilità di entrare nella scena di un carnevale in piazza. Anche questo l'avrà provocato, immagino, delle ferite che ancora le dorranno. Sono riuscito a non parlare di coronavirus intanto per un quarto d'ora, adesso andiamo avanti. 800 24 00 24, no le mascherine ma sia le maschere. Melog. Io ero in un collegio e i miei genitori lavoravano, un collegio settimanale, nel senso che poi il sabato e la domenica venivano a riprendermi. Era il periodo di carnevale e tutte le bambine chiaramente avevano l'abito bello, la damina. I miei genitori se ne dimenticarono di portarmi l'abito. All'ultimo momento arrivarono con un vestito carinissimo da diavoletto, però le suore non me lo fecero indossare. Io ho un ricordo di fine anni 70, dagli 8 ai 10 anni, in cui mi ricordo perennemente in ritardo sul carnevale. Mia mamma in ultimo si inventava con fantasia maschere improponibili. Una da sardo rapitore. Io ricordo di avere sempre desiderato i classici costumi da damina, da fatina, e invece io dovevo mettere i costumi smessi da mio cugino, e quindi mi sono subita un anno il costume da indiano. Mia mamma ha cercato di riadattarlo a una scuola. A quei tempi andava molto o il Pierrot piangente con la lacrima dipinta sul viso o altre cose. E a me mi travestirono da diavolo, io però volevo travestirmi da Superman. Otto zero zero ventiquattro, nemmeno la libertà di travestirsi. Rendiamoci conto anche noi che siamo genitori, quello che infliggiamo ai nostri figli di vituperio, di ignominia. Nemmeno liberi di immaginare di essere quello che vogliono il giorno di carnevale. Noi dobbiamo imporgli la maschera, quello che piace al papà, quello che piace alla mamma, quello che loro avrebbero voluto essere e non sono mai riusciti a essere. Per questo le bambine ancora si vestono da damina, da principessina, quando magari vorrebbero vestirsi, che ne so, da muratore, da metalmeccanico, da fabbro, mostro con la motosega e la maschera in faccia, no? Ancora devono vestirsi da vezzose principessine della Disney, ma pensa un po', ragazzi. Beh, oggi stiamo facendo questo atto di profonda sfida alla totale, giusta e sacrosanta lettura sul coronavirus, ma non tanto di chi fa il mestiere di informare, è giusto che lo faccia, ma non c'è gruppo, non c'è chat, non c'è luogo di discussione in cui tutti non fanno altro che linkare notizie, foto, immagini, dicendo, immaginando, hai visto questo, hai visto quell'altro. Calmini, tranquilli. Il mondo sopravvissuto a ben altro, sopravviverà anche a questo. Quindi noi oggi parliamo di carnevale, riteniamo giusto e lecito il fatto che qualcuno pensi che domani è l'ultimo giorno di carnevale, che per qualcuno sarà lecito anche domani un attimo buttare alle spalle i pensieri e dedicarsi comunque alla crapula, alla somma perdizione in attesa del pentimento del giorno delle ceneri. Ma se lo immaginò Boccaccio in altri tempi, 1349-1350, che era possibile comunque quando c'era la peste nera a Firenze. Immaginate cosa sia la peste nera. Non c'era Burioni, non c'era la televisione, non c'erano le maratone Mentana, non c'era niente di tutto questo. La gente sapeva c'era la peste. Ecco, l'ho potuto immaginare comunque il massimo desiderio di trasgressione, di leggerezza, di fuga, di sberleffo alla morte che incombeva, di 10 ragazzi che vanno in una casa in campagna e si raccontano sconcezze divertenti, mettendo in ridicolo tutto ciò che viene ritenuto più sacro. Beh, facciamolo anche noi oggi, per quanto possibile, ricordando quanto abbiamo dovuto subire dei nostri fanciulleschi carnevali, perché anche lì l'imposizione della regola genitoriale andava ad invadere anche il terreno privilegiato dei nostri sogni di travestimento. Renato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, io ho un ricordo del 74, ricordo l'anno perché era l'unico anno da sposati che abbiamo fatto senza figli, quindi siamo usciti e siamo andati a una festa fuori. Erano anni brutti, anni di piombo, anni di austerità, eppure... Sì, tutto, però a carnevale ci si buttava fuori, insomma, no? Cioè, quindi... Ma lei era fidanzato allora, con la sua signora, ancora no, liberi da figli? No, eravamo sposati. Ma già sposati? Da un anno, non avevamo ancora figli e in effetti è stato l'unico carnevale in cui siamo usciti, poi abbiamo festeggiato in casa. Festeggiato. La decisione. Le festicciole tristi con gli amici dentro casa, una cosa tristissima. No, beh, diciamo che eravamo una bella compagnia, un anno mi sono vestito da boia, un anno da Amleto, un anno e facevamo delle cose. Sempre una vena allegra, devo dire. Comunque sia legata alla trasgressione, alla gioia, alla sensualità, boia, Amleto. Sì, difatti. Nel 74 siamo usciti e la bella idea che abbiamo avuto io e mia moglie è stata quella di travestirci da prostitute. Anche la moglie? Anche la moglie. E a chi veniva meglio? Lei è venuta assolutamente meglio, perché io, nonostante avessi dei bei capelli lunghi, avevo i baffi. E anche se avevamo comperato smalto per le unghie, rossetto Real Red, cose del genere, cioè... anticipato dei personaggi molto importanti, diciamo, di certo. Uomini antravestì con barba e baffi, quindi era dotato anche di Wüstel, diciamo, per contrapporre c'è un famoso romanzo di Jorge Amado, Donna Flor e i suoi due mariti, inizia proprio col marito, quello bello, quello che gli rimarrà tutta la vita impresso alla memoria, perché è un uomo che l'amava veramente, che muore improvvisamente di un infarto durante il carnevale. Era vestito anche lui da donna, aveva una gigantesca appendice sotto la gonna e muore di infarto in questo gesto trasgressivo totale. Ecco, lei come si era vestito? Allora, dunque, mia moglie, iniziamo da lei, che era più facile, aveva un paio di hot pant di quelli assolutamente minimali che si usavano all'epoca, certo. Con una camicetta. A filo va pelo, come si dice negli ambienti raffinati. Più o meno. Sì. Va detto che lei in quella serata si è presa una bronchite, quindi si era esposta un po' troppo. È andata così. Io invece avevo un gonnone, una camicia aperta e poi, come dico, appunto... mostravo i miei baffi con una grande... Il gonnone non era molto in linea, scusi, con il dress code. Sì, però obiettivamente, intendo dire, non è che potevo osare di più. Anche perché noi siamo dovuti uscire di casa e con il nostro 500 abbiamo preso la via Novara per andare appena fuori Milano. A metà della via Novara la macchina ha cominciato a singultare e ci siamo posti il problema: ma se usciamo dalla macchina così, cosa succede? Dipende, allora, per lei poteva essere un'esperienza lacerante, sua moglie magari, che ne so, rompeva la routine. Per fortuna è andata bene, nel senso che la macchina era solo un po' fredda, la 500 faceva queste cose e niente, siamo andati, ci siamo divertiti moltissimo e ce lo ricordiamo come una cosa un po' strana. Vabbè, io vi auguro anche a voi quello che ho augurato ai precedenti ascoltatori. Alla faccia di tutto, è come una sorta di sberleffo al momento triste e di attenzione. Rivestitevi questa sera, tutti e due da zoccole, e divertitevi, che ne so, pensate domani a martedì grasso e festeggiate così il carnevale. Marco, buongiorno. Buongiorno. Sì. Sono Marco di Firenze. Ascolto. Allora, a me è successa una cosa strana, ora la ricordo molto volentieri. Io c'avevo un mio carissimo amico che era fissato per Marilyn Monroe. E quindi un carnevale... fare una scommessa e ha detto: guarda, io mi vesto da Marilyn Monroe. Il suo amico? Sì, cioè, no, io mi vesto da lei, per far contento il suo amico, sacrifica, diciamo, no, ma poi, la sua illibatezza, dice mi vesto una Marilyn e ti lascio divertire. Vabbè, per un amico. Allora, a un certo momento dovevo andare ovviamente alla festa mascherata e c'avevo queste mie amiche che sono bravissime nel truccare e tutto quanto. Per cui io ero convinto che mi vestissero da Marilyn Monroe, ma un po' da baraccona, insomma. Invece no. E invece mi hanno truccato tutto quanto, ma veramente che io mi vergognavo a uscire. Ma anche il vestitello attillato, quello classico, con la gonna. Bravo, la parrucca bionda, poi il vestito, cioè veramente, io mi vergognavo a uscire. Cioè lei si guardava al telefono, si autoattizzava a vedere quanto era venuto bene? Ma io non volevo essere messo in questa maniera ridicola. Per cui non volevo veramente andare via. Si vergognava che uscisse una natura che lei teneva riposta dentro con... No, ma credo Marco, mica c'è niente di male. Comunque è stato bellissimo, perché poi le risate, perché poi in questa festa... Lei ha avuto successo almeno vestito da Marilyn? Penso proprio di sì, veramente. Questo mio amico ha detto non è possibile, quando mi ha visto non è possibile. Cioè la guardava con occhi diversi il suo amico? Con occhi diversi davvero. Rida, lì c'è poco da ridere, perché sono cose che poi uno beve, alza un gomito, si sveglia e... Chissà che succede. No? Vabbè, se ne fa una ragione Marco, mica muore nessuno, però magari uno trova delle altre prospettive nella vita. Gianluca dopo, allora, fermiamoci un secondo, Gianluca fra un istante, ha una storia bellissima da raccontare. Melog. Oggi voglio mostrarvi come realizzare un simpatico costume da sushi perfetto per i bimbi un po' più piccolini. Allora, vediamo che cosa ci serve. Panno lenci arancione, nero, bianco e rosso. Forbice del velcro, del nastro di raso bianco o panna, due spille da baglia, del filo di spago, una penna. Non mi sembra vero nemmeno a me. Sono già riuscito a fare due parti della trasmissione senza parlare di coronavirus. E stiamo parlando di carnevale, di allegria, di travestimenti, di ricordi, di follie passate. Beh, continuiamo ad andare avanti, mi piace questo trend. 800240024, Gianluca. Buongiorno a tutti. Io ricordo che 30 anni fa ero appena fidanzato con la mia futura moglie. Lei si è vestita da bellissima Befana. E io non avevo tempo, facevo l'imprenditore, comprate vestiti, non avevo il tempo materiale. Da un mio cliente mi feci dare l'abbigliamento, che lui era operatore AMA di Roma. L'abbigliamento nuovo. Cioè da spazzito, diciamo da così. Bravissimo, da scopino. Noi chiamavamo da scopino, ma era brutto. Pure è brutto, è così lo scopino, mica è brutto. Allora mi vestì e andai l'ultimo giorno. Con la scopa, con la pattumiera, con la scopa tutto. Di bambù, perché io poi vendevo quel genere di attrezzatura, la scopa di bambù nuova, tutto preciso, busta nera. Insomma, arrivo, parcheggio la macchina, lei si abbeva, io da spazzino, insomma, mi hanno preso, momenti mettevano a lavorare, donna, no, me lo mette a pulire Roma. Bello, rimasto, dico, guarda, io sono vestito a carnevale, ma no, ma sei proprio originale. Sì, perché vestito non è un vestito, è la divisa originale. Una vera divisa. Beh, stai attento, non ripeta l'esperimento, perché oggi servirebbe oggi una carriola per portare via le lavatrici, i vecchi materassi. E all'epoca Roma non era così disastrata come oggi, era sporca ma non come oggi. Un po' meno, diciamo, zozza, però... un po' meno. Tanto pulita meno, non è mai stata, diciamoci la verità. Però meno, era meno. Va bene, già da allora era stato coartato a dover per forza pulire le strade. Laura, sentiamo Laura. E buongiorno. Già io rido ricordandomi cosa è successo. Allora, io mi sono sempre mascherata fino a 26 anni e mia madre mi faceva degli abiti meravigliosi. A 20 circa, 23 anni, a me piaceva, mi è sempre piaciuto lo sport, quindi sciavo. E ho chiesto a mia madre di farmi un vestito da gallina, ma cicciona proprio. Ma come mai è venuta questa ispirazione? Mamma, vestimi da gallina. Strano, perché bisogna capire. No, a me piaceva travestirmi, mi sono travestita da carta da gioco, da un sacco di cose. Mia madre mi seguiva, si divertiva un sacco. Quell'anno era ispirata dalla gallina. Sì, quell'anno lì era la gallina. Insomma, questa gallina, ma proprio ciccia, proprio tanto ciccia. Ma perché ciccia? Era ciccia anche lei, perché oppure? Mi, No, io sono normale. Una chiocciona voleva, bella grossa. Sì, una cosa bella cicciona, divertente. Con le penne proprio, con le piume, le penne. No, in realtà mi aveva fatto un abito tutto imbottito ciccione, con un po' come un fumetto, con il pelo finto. Quindi era un color crema con la cresta di stoffa e tutto il resto. Era un pezzo unico, con le calzamaglie arancioni, eccetera, eccetera. E quel giorno io ero in montagna a sciare, quindi ho detto, vabbè, io mi iscrivo a questa gara di sci, ma io non sono una sciatrice. Sono arrivata seconda. Ma non sapeva sciare lei? No, io so sciare perché... Ma non da fare una gara? Ma no, ma non mi è mai interessato. Quindi ha vinto, se era scendere giù dalla pista, una gallina cicciona che sciava un po' l'apifero, però veniva giù bene. E veniva giù bene, ho fatto uno slalom. E ha vinto la gara. Sono arrivata seconda, lei si deve immaginare le facce di quelli veri. Nessuno era mascherato, era l'unica mascherata. No, ero... Beh, è stato un gesto... Beh, un gesto di grande trasgressione, io l'apprezzo molto. L'apprezzo molto. Una donna simpatica. Ma nella vita ha avuto altri sprazzi del genere? Perché infrangere le regole in questa maniera così roboante, lo trovo che sia veramente... A me mette allegria solo pensarlo che l'ha fatto. No, però il carnevale, io abito a Milano ma vengo dalla Bergamasca, il carnevale, e ho 59 anni, quindi il carnevale qua negli anni 70 e fino a metà degli anni 80 era un carnevale popolare molto sentito, per cui io ricordo che a Trezzo c'era una specie di via crucis, per cui tante persone, aveva un assembramento da rivoluzione, tante persone facevano questo giro, una processione laica vera, e i luoghi della Via Crucis erano i bar, per cui io continuo a ridere su queste cose, perché ascoltando lei... Io sto vedendo nel monitor il collega Michelino con la mucchina e lo straccio sta pulendo il tavolo dello studio di Milano. Hanno messo a pulire con la mucchina il tavolo. Ah, bellissimo. Io ti vedo. Centra. Con la mucchina e lo straccio. Sta pulendo il tavolo. Sì, no, adesso pulisco anche io dove lavoro io. Guarda, una cosa bestiale. Io ho portato le salviette mille usi. Sono quelle anche per detergente intimo. E ci ho già pulito il microfono. Ma faccio nel frattempo, chi mi può vedere, sto pulendo anche io davanti a me. Qualche sputazzo ce l'avevo fatto pure io. Andiamo avanti, signora, andiamo avanti. Dobbiamo vivere anche il coronavirus in pieno della sua essenza. Sì. Di bene, passa bene, Michelino, dall'altra parte, lì non hai pulito, scusa, un attimo, dall'altra parte, sotto l'altro microfono, sì, bene. Va bene, grazie, Salvatore, andiamo avanti. Michelino con lo straccio che pulisce. Salvatore! Sì? Allora, avanti, andiamo per il carnevale, intanto io faccio una foto che tutta la vita peserà sul capo di un collega come fosse una mannaia. Salvatore! Sì, niente, io ero piccolo, avevo 7-8 anni... Sì. E i soldi non c'erano a quell'epoca, certo. E mia mamma aveva preparato a me e mia sorella dei vestiti di carta. Ma poi bellissimo, da bambini poverissimi, vestitelli di carta. Sì. Bello, come Pinocchio. È un buono. E niente, prima, mentre eravamo nella sfilata, ce li hanno strappati di dosso. Che crudeltà. E sotto si è capito tutti che erano i bambini poveri. E da quel momento il carnevale per me è un trauma. Ci credo, bruttissimo. Resto sempre ai margini, anche se da noi si fa un carnevale, diciamo, bello, carri, gruppi in maschera, però non ci partecipo più proprio. Vabbè, resto... dopo quel trauma, ci credo. La mamma aveva tanta fatica la notte con i giornali a farvi i vestitini. Ma veramente tanta poverina. Fatica. E avevano visto i bambini crudeli, ricchi, con vestiti di velluto, di stoffe preziose, erano tutti strappati. Sì, e sotto come eravate? Tutti macilenti, poverini, magri, con i vestitini, con le toppe. Ma sì, veramente sì, non eravamo lo so. Grande, come posso dire, grande figure, ecco. Vabbè, si conforti che oggi tanto stiamo tutti sulla stessa barca, quindi noi possiamo scherzare e parlare come se fossimo mai sul ponte del Titanic e parlare dei nostri costumi di carnevale, mentre Michelino sta pulendo con la mucchina la regia di Milano. Massimo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ascolto. Allora, io da piccolo avevo organizzato un carnevale spagnolo, a tema spagnolo, con mio cugino e mia sorella, mio cugino vestito da zorro, mia sorella vestita da spagnolo e io vestito da torero. Ma essendo sempre stato un bambino, diciamo, di... Ma perché c'era mago, tutta questa brama spagnolesca? Mi faccia capire. Così, stava studiando la Spagna all'elementare. Ah beh, tutti spagnoli, il dress code era la Spagna. Io ero vestito da torero, ma siccome sono sempre stato un bambino differentemente magro, tutti mi dicevano, che bello, Zorro col sergente Garcia. E io facevo finta di non piangere. Ma tristissima. Invece cosa doveva essere lei? Era semplicemente un torero ciccione. Esattamente, era un torero ciccione, quindi era automaticamente il sergente Garcia. Scusate, ma però ci vuole il sadismo di un genitore cattivo. Mette vicino a Zorro un bambino un po' opulento, è chiaro che è il sergente Garcia. No, poi capisci che quando mi hanno chiamato da Radio 24 dicendo mi resti in linea, mi si è rinnovellato un dolore. Lo so, ma non è per darle un dolore, ma se noi ricordiamo le cose tristi, le elaboriamo e ci guardiamo intorno, stanno tutti lì con la mucchina a pulirsi casa e mettersi le mascherine, noi parliamo delle maschere, quindi ci sentiamo un grado di distanza comunque dall'angustia generale, ma non perché non vogliamo depotenziare il problema, perché domani è martedì grasso, vorremmo bere, ubriacarci, folleggiare, peccare, così il giorno dopo ci pentiamo. Alla prossima, se ci sarà.